24. La storia. 1. Insieme con la vostra famiglia e con gli altri ebrei appartenenti alla vostra casa sarete trasferiti. 2. Bisogna portare con sé: A. Viveri per almeno 8 giorni. B. Tessere annonarie. C. Carta d'identità. Tenevano un foglio in mano con tutta la gente che cercavano quei nominativi. Si può portare via. All'alba del 16 ottobre del 43, le SS guidate dal capitano Daneker circondano il ghetto ebraico di Roma e deportano oltre 1000 persone, in prevalenza sono vecchi, donne e bambini. La loro destinazione, il campo di concentramento di Auschwitz. Quella che vi presentiamo oggi su Radio 24 è una storia terribile, ma per certi versi una storia incredibile. Fino all'ultimo, infatti, forse quegli ebrei si sarebbero potuti salvare. Ma quella del sabato nero, come sarebbe stato poi chiamato quel 16 ottobre del 43, è una storia in parte ancora circondata dal mistero, sul quale ancora oggi continuano a emergere nuovi documenti. E questa storia ha inizio nella Roma, città aperta, dell'8 settembre del 43. Roma, all'indomani dell'8 settembre, in realtà è una città ancora tranquilla. Gli ebrei vivono nel loro quartiere e continuano la loro attività. Così le testimonianze degli ex deportati Lello Di Segni e Leone Sabatello. C'era Radio Londra che diceva: aiutate gli ebrei, perché se no gli capiterà, verranno rastrellati, verranno uccisi, tutto quanto, tutte queste cose. E noi non davamo peso. Mia madre andava con una seggiola e si metteva a fare la lana. Passano due ragazzi che erano polacchi, e di avvertire la mia madre che esportavano via gli ebrei da tutte le parti del mondo. Ci siamo messi quasi a ridere, capito? Una cosa che, ma mio padre dice, ma mi porteranno in Germania, mi daranno un pezzo di terra, mi faranno... Si parlava chissà che ci faranno adesso, a che cosa andremo incontro. Ecco, una cosa normalissima. Non potevamo mai pensare che io venivo preso e fanno i 21 mesi di campo di concentramento. Dunque, sono solo pochi tra gli ebrei di Roma che percepiscono il problema. Sono pochi che sono a conoscenza della soluzione finale. Eppure, per loro, la tragedia sta per consumarsi. Ma tra i protagonisti di questa storia, naturalmente, ci sono anche loro, i nazisti. E a Roma, il governo di Berlino è rappresentato da un giovane console, Munhausen, e il suo braccio armato è il capo delle SS di Roma, il maggiore Herbert Kappler. Roma, Villa Volkonski, la sede dell'ambasciata tedesca. Dopo l'8 settembre è qui che si concentrano i massimi vertici nazisti. Herbert Kappler, 36 anni appena compiuti, divorziato, senza figli. Kappler è un esperto di servizi segreti. È lui l'artefice di una delle operazioni più apprezzate da Hitler, come la liberazione di Benito Mussolini dal Gran Sasso. L'ambasciatore tedesco in Italia è Rudolf Rahn, ma nel settembre 43 Rahn è nel nord Italia per aiutare Mussolini e la Repubblica di Salò. A Villa Volkonski il padrone di casa è dunque il console tedesco Friedrich Mühlhausen. Un maggiore dell'SS giovane e ambizioso che da lì a poco sarà promosso colonnello. È un giovane console che non ha niente a che spartire con l'ideologia del Terzo Reich. È intorno a questi due personaggi, a Kappler e a Mühlhausen, che si giocherà il destino di 1000 ebrei romani. Ma intanto i rapporti tra l'Italia e la Germania sono completamente cambiati dopo l'8 settembre. Quello che era una volta il più fedele alleato di Hitler è diventato un paese infido da invadere e da occupare. E domenica 25 settembre del 43 da Berlino a Kappler arriva un ordine. Gli ebrei di Roma vanno rastrellati e deportati nei campi di sterminio. Al sabato nero mancano 21 giorni. Così Aldo Pavia, presidente dell'Associazione Nazionale degli Ex Deportati. Quello che comunque si è appurato è che all'interno delle strutture naziste, anche a Roma e soprattutto a Roma, l'ordine della deportazione degli ebrei romani suscitò perplessità, fu valutato anche non positivamente dal punto di vista delle convenienze, anche politiche, dei rapporti. Non dimentichiamo che a Roma comunque c'era il Papa, c'era il Vaticano, e comunque non si era ancora in grado di valutare poi quella che sarebbe stata la il comportamento della popolazione, le reazioni della popolazione, anche perché la comunità romana non era una comunità relativamente giovane della città, fa parte della storia della città, gli ebrei erano arrivati già ai tempi dei Cesari, quindi erano una componente stretta della storia della popolazione romana. Vengono messi in atto alcuni artifici o tentativi di rinviare quantomeno questa deportazione. Roma, Villa Volkonsky, 25 settembre. Il generale Steyl intercetta l'ordine inviato a Kappler e informa subito il console Mühlhausen. Mühlhausen è combattuto, sa che aver intercettato un dispaccio segreto indirizzato a Kappler può procurargli grossi guai a Berlino. Ciò nonostante, il console affronta il maggiore delle SS. Mühlhausen gli dice chiaramente di essere contrario alla deportazione degli ebrei. Kappler e Mühlhausen dunque non sono d'accordo con l'ordine che viene da Berlino di deportare gli ebrei. Non sono d'accordo perché vivono a Roma e sanno quanto a Roma sia influente il Vaticano e Papa Pio XII. Non sono d'accordo sul piano militare perché temono che la popolazione romana, che convive pacificamente con gli ebrei da millenni, possa sollevarsi contro i nazisti. Continuiamo con la storia dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Rieccoci su Radio 24 con la storia. Siamo al 26 settembre, a 20 giorni dalla tragedia. Di buon mattino Kappler e Mühlhausen lasciano Villa Volkonsky per andare a incontrare il feldmaresciallo Kesselring, comandante delle truppe per tutto il sud Italia. Kesselring in quel momento è l'unico che può fermare l'azione contro gli ebrei. E Kappler, con Kesselring, usa un argomento molto persuasivo, molto convincente. Per l'azione contro gli ebrei servono tanti, tantissimi uomini, molti soldati, e Kesselring quei soldati non li può fornire perché sono tutti impegnati al sud a combattere contro gli alleati. Allora Kappler e Mühlhausen tornano in città. Dunque, in quel momento, apparentemente, gli ebrei di Roma sembrano salvi. Poi, quella stessa sera, avviene un fatto inspiegabile. Kappler convoca a Villa Volkonsky i massimi rappresentanti delle comunità ebraiche e lì tiene un discorso molto sprezzante. Voi e i vostri correligionari avete la cittadinanza italiana, ma di ciò a me poco importa. Noi tedeschi vi consideriamo unicamente ebrei e come tali nostri nemici. Anzi, per essere chiari, noi vi consideriamo come un gruppo distaccato, ma non isolato dei nostri peggiori nemici, contro i quali stiamo combattendo. E come tali dobbiamo trattarvi. Però non sono le vostre vite, né i vostri figli che vi prenderemo, se adempirete alle nostre richieste. È il vostro oro che vogliamo, per dare nuove armi al nostro paese. Dopo un'oretta e mezza, vennero e un po' molto, molto agitati e dissero che le Kappler volle dalla comunità israelitica 50 kg di oro entro 36 ore, altrimenti avrebbe preso in un primo tempo 200 ostaggi. Das Dritte Reich fordert von der israelitischen Kultusgemeinde Roms die Zahlung von 100 Pfund Gold. Il Terzo Reich esige subito dalla comunità israelitica di Roma 100 Pfund d'oro. Come 100 fum? 50 chili. Ja, 50 chilo. 50. Entro dopodomani a mezzogiorno. Come trovare 50 chili d'oro per dopodomani? Ja, übermorgen. Dopodomani a mezzogiorno. Wenn ihr aber nicht wollt, dann hören Sie mich gut an. E un out out. O loro o 200 capi famiglia con ostaggi. Dunque è di 50 chili d'oro il prezzo stabilito da Kappler per la vita degli ebrei romani. Ma perché Kappler mette in atto questo ricatto? Al processo contro di lui nel 48 Kappler dirà che con questo stratagemma lui voleva praticamente convincere Berlino che privare gli ebrei dell'oro avrebbe significato renderli di fatto inoffensivi. Ma questa versione non convince. Anna Bleier, ex deportata. Io mi rammento benissimo, questo me lo rammento, di mio padre che venne a casa e che, aprendo un cassetto, cominciò a tirare fuori bracciali, anelli, ma con un tale nervosismo, con una tale... Ma sì, diamo. Lello di segni. Tanta gente di noi dicevano, ma io ho l'oro sui denti qui con la capsula dorata. Se tu non gliela dai di tua iniziativa, si diceva, dopo te la tolgono con le cattive. E allora dopo qualcuno magari ha cercato in qualche maniera di togliersela. Leone Sabatello. Mia madre si annoia a casa, se trovassimo la catenina e tutto quanto. Mia madre se lo la fede, cioè, tutto quanto. E raccimolassimo tutto quanto. Se andava alla comunità israelitica, se faceva una fila, si consegnava. Oltre noi, che si organizzassimo a dare quest'oro, c'erano parecchi cattolici che ci aiutavano per raccimolare tutto quest'oro. Dalla quale c'era un cantante che simpatizzava con noi ebrei, si chiamava Romolo Balzani. Se dava la catenina alla fede e cedete l'oro che c'aveva lui. Tutti quanti lo davano questo. Tutti quanti cercavano di poter, perché noi credevamo, dando quell'oro, che ce fossimo salvati, capito? Tutta la città si mobilita, sono moltissimi i romani che corrono in aiuto degli ebrei per cercare di mettere insieme quei 50 chili d'oro chiesti da Kappler. Anche il Vaticano si dichiara disponibile a offrire quello che manca. Il 28 settembre gli ebrei consegnano ai tedeschi il prezzo del riscatto, i 50 chili d'oro stipati in 10 scatoloni, e pensano così di essersi assicurati la salvezza. Ma il tantan popolare, le prime voci che circolano sul fatto che neppure l'oro servirà per salvare gli ebrei di Roma, restano inascoltate. Sono pochi, pochissimi, quelli che all'indomani del 28 settembre pensano comunque a mettersi in salvo presso i conventi, le chiese, le famiglie di quei coraggiosi disposti a nascondere gli ebrei in fuga. Intanto però gli alti comandanti nazisti cominciano a spazientirsi. A Berlino percepiscono che a Roma c'è una resistenza all'ordine di deportare gli ebrei. E allora inviano uno specialista, il capitano delle SS Theo Dannecker. Così Aldo Pavia, presidente dell'Associazione Nazionale Ex Deportati. Theo Dannecker era un SS che, diciamo, si era specializzato nelle deportazioni, soprattutto in Polonia. Sapeva anche come muoversi in città in cui non esisteva di fatto un ghetto riconoscibile con confini, e quindi l'arresto e la deportazione degli ebrei doveva avvenire attraverso, appunto, la ricerca proprio degli ebrei, quindi la caccia all'uomo. Dunque, tra il ricatto dell'oro e l'arrivo di Dannecker a Roma passa poco più di una settimana. È logico dunque immaginare che la deportazione degli ebrei avrebbe avuto luogo comunque. È mercoledì 6 ottobre del 43. Kappler sembra appoggiare un estremo tentativo di Mollhausen per impedire la deportazione. Così lo scrittore Robert Katz. Il vero motivo perché Kappler era opposto alla deportazione si scopre soltanto adesso, con i nuovi documenti in cui lui scrive a Kaltenbrunner di ottenere il permesso per un altro rastrellamento. Era il rastrellamento degli carabinieri a Roma. Lui sapeva la storia d'Italia e i carabinieri, la lealtà dei carabinieri al re. E infatti lui ha fatto lui era molto orgoglioso che ha avuto questa idea di prendere i carabinieri. Nell'ottobre del 43, con l'esercito italiano allo sbando, la resistenza partigiana sempre più forte. Per il colonnello dell'SS Kappler, i carabinieri sono molto più pericolosi di poche migliaia di ebrei, specie perché sono in grado di intralciare i piani nazisti. Ma Berlino non vuole sentire ragioni. Kapler, insomma, ha una priorità: gli ebrei di Roma. Il capitano Daneker, dunque, e la sua squadra di specialisti si mettono al lavoro per preparare la retata. Ormai per gli ebrei di Roma, del ghetto di Roma, è solo una questione di giorni. Così Liliana Picciotto, studiosa del Centro di Documentazione Ebraica. A questa predisposizione della retata dà una mano anche il commissario aggiunto Gennaro Cappa. Quindi non è vero affatto che gli italiani non c'entrano niente. L'azione deve essere compiuta in un giorno particolare, in modo da trovare le famiglie riunite e quindi andare a colpo sicuro. La sera del sabato è l'inizio dello Shabbat ebraico, quando le famiglie per consuetudine si riuniscono. È sabato 16 ottobre 1943, così i testimoni di quel giorno. Stavamo a dormire, sentivamo un combustolo e ci siamo visti dalle finestre e vedevamo tutti questi tedeschi che entravano nelle case. Ci affacciassimo alla finestra e vedevamo i tedeschi che facevano su e giù, su e giù. Era il 16 ottobre 43. Mi ricordo delle mani nei capelli di mio padre, la disperazione di altri appartenenti alla famiglia, perché c'erano i miei zii, c'erano, e si viveva in quel periodo come un clan. E dissero, e mi dissero pure a mio padre: dove sta Alberto? Rubino Sabatella, che era mio fratello. Mio figlio Sabatello sta al soldato, sta a far soldato. Invece non era vero. Mio fratello stava a Ciampino presso una famiglia dei cattolici che mio padre l'aveva cercato di non farlo entrare, perché si dicevano tutti quanti che prendevano gli uomini abili al lavoro. Allora io e mio fratello siamo saliti, ho preso mio padre e mia madre. Poi abbiamo preso i tre figli di mio fratello, poi io sono risalito per prendere mia cognata che aspettava il quarto bambino. E lui gli dice: Emma, andiamo, scendi, si guarda, io non scendo, non posso scendere. E mentre stavo parlando, sentivo che buttavano giù la porta col fucile. E allora mia cognata mi dice: vattene, che stai a fare? Guarda le bambine. Consegnavano alle famiglie ebraiche un biglietto con una serie di indicazioni, ossia che entro 20 minuti devono essere pronti, e dovevano portare con sé una serie di cose, da soldi a gioielli a vestiti pesanti, a tutto ciò che sarebbe stato necessario per loro per andare a lavorare. Vi farete un lungo viaggio, dissero, che facevamo un lungo viaggio. Mia madre preparava del pane bruscato e aprissimo una fodoretta che ci andavamo a dormire. Ci metteva tutto sto pane qua. Ci andiamo giù al portone di casa. C'era un bambino in fasciola, un bambino neonato, e c'era una signora che conosceva. Un'altra signora gli disse: mi porti questo pacco da mia sorella a Piazza Cavalleggeri? E gli dà sto pacco. Al pacco, sai che c'era? C'era suo neonato. La madre l'ha data sta cattolica. Sta cattolica l'ha capito, se l'ha portato via e l'ha portata alla sorella Erika, che sta a Piazza Cavalleggeri, capito? Ci hanno portato vicino Monte Savello, lì vicino, no, a un lato prima di Monte Savello, vicino alla sinagoga, no? C'erano dei camion con quei tendoni coperti, no? Qui adesso non so il nome di preciso, e ci hanno caricato lì. E dopo da lì siamo stati trasportati al collegio militare. Alle 14 di sabato 16 ottobre il rastrellamento è finito. I nazisti sono riusciti a catturare 1200 persone, tra cui 363 uomini, 689 donne e 207 bambini. La tragedia è appena iniziata. Confusi, terrorizzati, gli ebrei vengono fatti salire sui camion e trasportati al collegio militare. Ma per gli ebrei di Roma, nonostante tutto, la salvezza sarebbe ancora possibile. Dai nuovi documenti emersi dagli Stati Uniti, infatti, esce una verità sconcertante, subito dopo la pubblicità. Mix 24, la storia. Rieccoci su Radio 24 con la storia di quel sabato nero. È il 16 ottobre del 43 e per gli ebrei di Roma non c'è più scampo. Dopo la caccia all'uomo, le famiglie sono state trasferite presso il collegio militare a Roma e stanno per essere deportate in Germania nei campi di concentramento. Ma chi era a conoscenza dei piani tedeschi? Chi sapeva a Roma che Berlino aveva disposto il piano di deportazione? Così lo scrittore Robert Katz. Gli alleati sapevano già quanti sono stati arrestati, dove erano il collegio militare, che quando partiranno per Auschwitz, il numero del treno, la rotta che dovevano seguire, quanto era la scorta che doveva accompagnare, che era una scorta minima, lo sapevano anche quello. Tutti sapevano di questo pericolo, tranne gli ebrei. Secondo le ultime documentazioni, sappiamo che gli americani avevano scoperto l'esistenza di una trasmittente a Villa Volkonsky con cui Kappler comunicava direttamente con Berlino. Intercettando quei messaggi provenienti da quella trasmittente, gli americani erano venuti a conoscenza di tutto quello che si stava preparando a Roma. Ma i tedeschi non dovevano sapere che gli alleati avevano scoperto il segreto di Enigma, la macchina che cifrava i messaggi nazisti. Rivelare quel segreto avrebbe compromesso il successo dell'attacco degli alleati ai tedeschi nella campagna d'Europa. Gli ebrei, insomma, sono lasciati per questo al loro destino. Ma non sono solo gli americani a sapere quanto sta accadendo. Il ghetto di Roma e il collegio militare dove gli ebrei sono stati rinchiusi si trovano vicini, a pochi isolati di distanza da Piazza San Pietro. E il Papa Pio XII è tra i primi a essere informato del rastrellamento. Così il vaticanista Orazio La Rocca. La mattina del 16 ottobre, mentre nel ghetto è in corso la razzia dei nazisti, la principessa Pignatelli Aragona Cortes si precipita subito dal Papa per denunciare il fatto e sollecitare un intervento della Santa Sede. La principessa viene subito ricevuta da Pio XII nel suo studio privato e racconta quello che ha visto con i suoi occhi. Il Papa, sappiamo dai documenti, che ascolta con grande trepidazione e apprensione questo le parole della signora. Subito non la fece nemmeno finire, subito alzò il telefono, convocò il segretario di Stato, il cardinale Maglione, il quale a sua volta fu invitato a convocare in Vaticano l'ambasciatore presso la Santa Sede, Weizsäcker. Weizsäcker ascolta la formale protesta della Santa Sede, però si guarda bene dal riferire a Berlino la completezza di questa protesta. Tant'è vero, a Berlino esiste una sua versione nella quale si fa capire che la Santa Sede sì è turbata, è dispiaciuta, però non assicura che non va oltre, il Papa non va oltre, pur essendo spinto. Come leggere questa posizione? Secondo me fa il doppio gioco. L'ambasciatore millanta i crediti sia a Berlino dicendo: guardate, io riesco a tenere buono il Vaticano, il Papa non interviene, e nello stesso tempo fa finta presso le autorità vaticane di assicurare che grazie al suo ruolo la Santa Sede non corre rischi, ecco. Quindi sicuramente il Papa, come sappiamo, agì per canali diplomatici lanciando la sua formale protesta, però sotto la protezione di Pio XII in quel periodo c'erano circa 800.000 ebrei. Credo che evitò proprio lo scontro pubblico frontale, credo per salvare questi 800.000 più 4.000 ebrei che erano sotto la sua protezione. Era un po' sotto forma, era una forma di ricatto nazista alla quale purtroppo ebbe timore, ebbe paura di reagire. Fece bene, fece male, questo purtroppo non stanno a dirlo. Uno studioso israeliano ha calcolato che in quel momento nelle chiese, nei conventi, nelle basiliche, nelle famiglie di tutta Europa occupata dai nazisti avevano trovato rifugio oltre 800.000 ebrei, di cui 4.000 solo a Roma. ma quel 16 ottobre, contro la determinazione dei nazisti, la protesta ufficiale di Pio XII non ottenne alcun risultato. Invece a questo punto, per i 1000 ebrei di Roma, non c'è più nulla da fare. Lunedì 18 ottobre del 43, un convoglio di camion trasporta il suo carico di deportati dal collegio militare alla stazione Tiburtina. Qui i vagoni merci sono pronti a mettersi in viaggio verso Auschwitz. Così gli ex deportati Leone Sabatello e Lello Di Segni. Dopo 4 giorni ci portano a Tiburtina, ma non lì dove abbiamo messo la lapide, allo scalo merci giù, dove stanno i binari. Sentivamo che strillavano sempre questi tedeschi, lei sa meglio di me, quando parlano mettevano paura solamente quando che parlavano, guardi. Ci hanno aperti i vagoni e siamo entrati 45 e ci siamo raccolti tutte le famiglie e ci siamo raccolti 45 persone. C'era mio padre, mia madre, mie sorelle. Ci viene regolata quello che era un carro bestiame con un vagone con, che ne so, 50. 100, non lo so. Allora quando siamo scesi alla banchina di Birkenau, io stavo sotto abbraccio a mio padre. Mi hanno diviso tutti qua e io direi dall'altra parte. Mio padre mi disse, dice adesso te, vedi lì ci sono dei gruppi dei tedeschi, no? C'è uno che decide quello che deve fare e quello che uno si deve fare. Stammi vicino, forse mio padre, non lo so, poteva aver capito qualcosa, non lo so, perché mio padre, gli ho detto, con i tedeschi ci ha avuto a che fare nella guerra 15-18. Mi prese per la mano e arrivati al punto dei due tedeschi, quello che diceva sulla sinistra e quello che diceva sulla destra, io andai con mio padre. Allora gli fece a mio padre, ma mamma, Angelo, i miei fratelli, Angelo, Mario, mia sorella, cioè quelli stanno con mamma, lascia stare, che adesso gli vedo. Li vediamo dopo, perché noi avevamo quest'idea che arrivati a destinazione venivamo mandati a lavorare, ma dopo saremmo stati a sera, non so, anche che lavoravo un periodo tutta la giornata, dopo sarei ritornato in famiglia. Invece questo non è successo. Che dopo poco momenti se saressimo ricongiunti, hai capito? Invece mi disse dopo poco tempo, passò il primo giorno, il secondo giorno trovai un polacco che parlava bene italiano e mi disse Leo, si fece amicizia tutto quanto, mi disse Leo guarda, se ti vuoi sfogare a piangere, piangi, te tuo babbo tuo, tuo padre e tua madre e tutta la famiglia di un'altra tra i miei. Leeren Kinder mit Großgeschäft, also so hier hallo. Herbert Kapler è stato condannato all'ergastolo nel 1948 per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, ma non per la deportazione degli ebrei. Il tribunale lo ha riconosciuto colpevole di estorsione nei confronti degli ebrei romani e per questo reato lo ha condannato a 4 anni di reclusione. Il 15 agosto 1977 è evaso dall'ospedale militare del Celio a Roma. Sei mesi dopo è morto nella sua casa in Germania. Theo Dannecker è stato catturato dagli alleati alla fine della guerra. Si è impiccato in cella prima del processo. Albert Kesserling, processato nel 1947 e condannato a morte per crimini di guerra. La pena capitale è stata commutata in ergastolo. Nel 1952 è stato rimesso in libertà per gravi motivi di salute. Al ritorno in Germania è stato accolto da eroe da circoli neonazisti bavaresi, con cui ha collaborato attivamente fino alla sua morte, nel 1960. Il console Friedrich Mühlhausen si è stabilito in Italia dopo la guerra ed è diventato un ricco uomo d'affari. Dei 1022 ebrei romani deportati il 16 ottobre 1943, soltanto 15 uomini e una donna sono sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti. Mix 24, la storia. Riccardo Di Segni, il rabbino capo di Roma. Il 16 ottobre del 43, lo abbiamo raccontato, si consumò il rastrellamento del ghetto. Che cosa rappresenta quella data per la comunità ebraica di Roma? Per la memoria degli ebrei romani è ancora una ferita aperta. Il racconto, il trauma di quei giorni è stato trasmesso per le generazioni. Io sono nato ad esempio nel 49, i miei genitori erano riusciti a scappare prima, ma dico, nella mia famiglia c'erano stati dei deportati e anche una sopravvissuta che ci raccontava, e quindi queste cose si trasmettevano dentro casa, nelle riunioni familiari. Quindi è un'esperienza diretta oltre che storica, diciamo. Sì, non è una cosa astratta che uno legge su libri, ma qualche cosa proprio certo. Vissuto sulla pelle. Esattamente. Che poi rimane impresso, rimane un incubo, siamo ancora segnati da... Certamente. Ecco, ma lei si è fatta un'idea di chi potesse sapere all'epoca di questa decisione? Il rastrellamento del 16 ottobre è stata un'operazione eminentemente nazista, con un minimo di, diciamo, di garanzie di ordine pubblico da parte della questura e di autorità fasciste. Per il resto, quel tipo di operazione è stato fatto dai nazisti. Ecco. Invece, subito dopo, non è stato fatto dai nazisti. I nazisti si sono messi in secondo piano e hanno fatto fare il lavoro sporco agli italiani, che purtroppo l'hanno fatto. L'hanno fatto, certo. L'hanno fatto sollecitando delle azioni, qualcuno ha fatto delle azioni anche volontariamente, poi c'erano delle bande fasciste che giravano, poi insomma era un clima di terrore. Di terrore completo. Senta, la memoria, comunque la memoria e il ricordo restano sempre l'arma più importante, l'ha detto lei stesso sulla sua, con la sua esperienza personale, perché il passato non passi e ci aiuti a evitare gli errori. Ecco, ma i testimoni diretti naturalmente stanno ormai quasi tutti scomparendo. Allora bisogna fare che cosa perché le nuove generazioni ricordano, quando non c'è più la testimonianza diretta, anche se molte sono state raccolte, possono essere trasmesse in continuazione? Noi diciamo che tutti quanti noi diventiamo testimoni, ci hanno veramente passato il messaggio e noi in qualche modo, avendolo raccolto, siamo a nostra volta depositari e trasmettitori. Quindi è una catena di trasmissione. Questo quindi è molto, diciamo che la paura che si dimentichi è una paura che si esorcizza con la trasmissione di persona in persona. Sì, è una cosa sulla quale bisogna lavorare, certo, naturalmente. Non va in automatico. No. Grazie Rabbino, grazie mille, grazie tante. Amedeo Osti Guerrazzi, storico e autore di Caino a Roma, i complici romani della Shoah. Come mai ha deciso di occuparsi di questo tema? Ma come spesso succede, da ricerca esce poi fuori un'altra ricerca. Avevo cominciato a lavorare sulla Repubblica Sociale Italiana a Roma e mi ero accorto che moltissimi italiani avevano collaborato con i tedeschi nella ricerca e nella persecuzione degli ebrei. Da qui la voglia di approfondire l'argomento. Quelli che poi sono andati al nord nella Repubblica Sociale, giusto? Quelli sì, che hanno aderito alla Repubblica Sociale e a Roma hanno continuato a collaborare con i tedeschi. Che cosa ha scoperto dalle sue ultime ricerche? Ma che fondamentalmente la collaborazione fu molto molto estesa, non tanto a livello di delazioni o di lettere anonime, ma ci furono moltissimi italiani che si organizzarono in gruppi e si misero direttamente a disposizione dei tedeschi per dare la caccia agli ebrei. Ma c'è stato secondo lei un momento in cui si poteva davvero evitare questa tragedia? Del 16 ottobre, sì. Dice? Sì. No, non c'è stato nessun momento in cui sarebbe stato possibile evitarlo. I tedeschi avevano il potere assoluto a Roma. Qualsiasi tipo di opposizione avrebbe forse creato uno scandalo a livello internazionale, avrebbe forse creato dei problemi diplomatici a Reich, ma comunque nessun potere a Roma, neanche la Chiesa Cattolica, aveva il potere di impedire la deportazione degli ebrei il 16 ottobre. Americani e Vaticano potevano fare di più? Forse gli americani sicuramente non avrebbero potuto fare molto, ma perché? Forse il Vaticano... Perché non avrebbero potuto fare perché molto? Gli americani erano ancora lontani da Roma, erano ancora bloccati sul fronte meridionale, avevano appena superato Napoli, non potevano far nulla. Avrebbero potuto bombardare i treni che portavano gli ebrei al nord, ma avrebbero ucciso gli ebrei stessi. Il Vaticano forse avrebbe potuto fare qualcosa di più. Il Papa non parlò, il Papa non fece nessuna protesta formale, molto probabilmente per paura, ma molto anche per evitare forse guai peggiori. Quindi che cosa avrebbe dovuto fare il Papa? Beh, dovuto è una parola grossa, avrebbe sicuramente potuto elevare una protesta pubblica e formale. Quello che viene molto detto in contro, diciamo così, l'attività della Chiesa Cattolica è che dopo il di Roma a luglio il Papa espose, andò direttamente al Verano, si fece vedere, si fece fotografare come forma di protesta, per gli ebrei non fece nulla. Ecco, il dibattito è sempre quello: se questo atteggiamento vaticano di evitare qualsiasi tipo di protesta pubblica abbia poi consentito il salvataggio di moltissimi ebrei dopo il 16 ottobre e quindi sia stata una politica positiva, oppure sia stata semplicemente dettata dalla paura. Il dibattito è ancora aperto, diciamo così. Lei ora è a Berlino, di che cosa si sta occupando? In questo momento mi sto occupando di internati militari italiani, cioè degli soldati italiani arrestati, fermati dai tedeschi dopo l'8 settembre e inviati nei campi di concentramento in Germania. Cosa ci può anticipare del suo prossimo libro? Il mio prossimo libro non sarà sugli internati, la mia prossima ricerca è sempre sulla deportazione degli ebrei italiani, sempre da Roma, ed è una ricerca sulle procedure di deportazione, cioè su come la polizia tedesca e la polizia italiana operavano nella ricerca, nell'arresto e nella deportazione degli ebrei. E come operavano? Ma è estremamente interessante, perché la polizia tedesca subappalta il lavoro di ricerca e di deportazione degli ebrei a gruppi di collaborazionisti italiani, mentre la questura italiana, la questura fascista diretta dal questore fascista Pietro Caruso, invece continua a operare autonomamente. Ed è questa è forse la cosa più interessante che è venuta fuori da questa ricerca, nel senso che diciamo che la polizia italiana e le autorità italiane fasciste non aspettano gli ordini dei tedeschi, ma si mettono autonomamente ad arrestare e deportare. La cosa più interessante che è uscita da queste ricerche sono le liste di deportazione fatte dagli italiani stessi. Grazie professore. Grazie a lei. Ringrazio Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.